Buongiorno, in diretta dagli studi di Radio 24 e dal Parco di Collodi va ora in onda 1 Nessuno 100.000. In studio Geppetto, Milan Maria Alessandro, Pinocchio, signor Bonetti Leonardo Manera, in regia il gatto Peter Pescapè, in redazione la volpe Lorenzino Nespoli, la fatina Elisabetta Fusconi e il grillo parlante Miriam Lucchetti. Buon ascolto e buon divertimento a tutti. Uno, nessuno, centomila. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. E allora, come vedete, siamo tutti qui alle 9:10 minuti per una nuova settimana di Uno Nessuno 100 Milan. Siamo con voi fino alle 11. Ricordo che oggi inizia l'ottava settimana decisiva per la riforma elettorale. Forse che fosse la volta buona. E quindi potremmo farcela. Insomma, gran bella giornata. E quindi fisca l'arbitro, la ricorsa. Parte Ibra, la manda in curva. Come in curva? Calmi. Calmi, stiamo calmi. Attaccare! State calmi. Siamo primi. Siamo primi. E quando dico siamo, intendo noi del Milan, noi della Prosesto, che ha la quarta vittoria consecutiva nel derby in trasferta contro la Pro Patria, 1-2 al 94. Prima la Prosesto in Serie C, primo il Milan in Serie A. Proporrei la sospensione dei campionati per Covid, assegnazione dello scudetto e delle promozioni a questo punto. Portiamo avanti questa idea. La parola chiave è umiltà sacchiana. Umiltà. Primi, calmi, calmi e primi. Avanti Alpino, avanti. I will not be easy and it will not be easy. 9:11 minuti, calmi e primi, primi e calmi. Ci siamo per parlare di tante notizie anche oggi. Parleremo di Trump, parleremo di America, parleremo di scuola, parleremo anche di Covid, per carità, parleremo di fatti. Insomma, state con noi perché abbiamo tanti argomenti da affrontare. Voi potete chiamarci all'800 24 0024 oppure mandate WhatsApp al 349 238 6666 per le vostre considerazioni. Signori, sono 70 i giorni. 70 giorni. Da 70 giorni 18 pescatori partiti da Mazara del Vallo sono in Libia, trattenuti, detenuti a Bengasi nella quasi totale mancanza di informazione. Io qui faccio questa conta quotidiana, spesso sentiamo i loro familiari in apertura. Oh ragazzi, perfino la BBC, no dico la BBC, ha dedicato 25 minuti di servizio a questa vicenda. Fishermen from Mazara del Vallo on Sicily's west coast. They were detained by Libyan coast guards on the night of the 1st of September. I'm Linda Presley and in this week's assignment on the BBC World Service, the Red Prawn War. 25 minuti di servizio sulla BBC. No, non so se mi spiego, ma perché non se ne parla così tanto? Ma ci interessano le vicende di questi 18 pescatori partiti da Mazara del Vallo? Non lo so, cioè la sensazione va bene, bisogna mantenere un po' il silenzio perché queste trattative diplomaticamente si fanno nella riservatezza, però mi sembra quasi che proprio ci sia una sensazione di dire si arrangino, siano là, stiano là al loro destino. What kind of a man is Giacomo? I mean, he's young, he's 32. Ci accontentiamo di vedere servizi lunghi sulla BBC di questa vicenda e io qua continuerò a contare i giorni sperando ovviamente, come ho detto da tempo, di finire questa conta, ma sono 70 i giorni di assenza di questi 18 pescatori da Mazara del Vallo alle loro, per i loro familiari. Invece, io nel presentare i miei due ospiti, che trovo con molto piacere, partirei dall'America per arrivare all'Italia, un po' il percorso che stiamo facendo in questi giorni. Saluto Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno Aldo, grazie. Buongiorno di essere Alessandro, qui. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Poi vorrò parlare anche del tuo libro straordinario che sta avendo un successo clamoroso, A rivedere le stelle, perché è una lettura di Dante molto molto particolare. Insieme a Aldo Cazzullo fatevi salutare un imprenditore che torna, un amico, Oscar Farinetti. Buongiorno, buongiorno Farinetti. E buongiorno, saluto anche Aldo. Lo sa che siamo della stessa città, siamo nati entrambi ad Alba. Non sapevo di questa carambata. Sono colpi di fortuna. Io vorrei sapere, allora, sentiamo, c'è questa telefonata, ormai il vero personaggio è Kamala Harris, cioè la vera presidente degli Stati Uniti, secondo i media è già lei, donna, con questo marito che ha chiesto il congedo, è Kamala Harris che incarna il futuro dell'America, anche perché Joe Biden, con tutto rispetto, ma insomma i suoi anni ce li ha, ma Kamala Harris che a un certo punto chiama Joe Biden, ce l'abbiamo fatta. We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. Questa è un po' la telefonata clou. Allora io da imprenditore Farinetti a imprenditore Donald Trump, ma che consiglio gli darebbe a questo punto, caro Farinetti? Beh, intanto lei ha proprio citato uno dei problemi nostri degli imprenditori, cioè Donald Trump è un'icona. Per cui succede che un sacco di gente immagina che tutti gli imprenditori siano così, quindi io vorrei utilizzare il suo mezzo che si rivolge a moltissime persone per dire che gli imprenditori non sono così, perché uno poi si fa un'idea sbagliata, capito? Siamo gente molto più normale, molto più tranquilla, molto meno incazzata, e quindi non voglio assolutamente appartenere a questa immagine dell'imprenditore alla Donald Trump. Beh, la mia idea è che sia andato un po' fuori di testa, è andato un po' fuori di testa quella persona, perché è pazzesco quello che sta succedendo, sta facendo anche una brutta figura personale, ma questo è il meno. Il problema più grave sono quelle immagini terribili di persone col mitra in mano per le strade, cioè è una roba pazzesca, cioè questo qui fomenta l'incazzatura delle persone. Per cui in un paese come gli Stati Uniti, che è considerato la democrazia più avanzata del mondo, eccetera, eccetera, vediamo queste scene terribili di personaggi col mitra vestiti da guerriglieri per le strade pronti a intervenire al suo via. D'altra parte lui li ha messi anche in allerta, nei suoi vari speech, dicendo tranquilli per ora, aspettiamo e vediamo. È terribile, è una brutta scena. Speriamo che si ravveda in questi giorni, ma credo succederà. Speriamo che qualcuno lo faccia anche un po' ravvedere. Aldo Cazzullo ne ha scritto molto di elezioni americane in questi giorni. Noi le vediamo dall'Italia sempre con un occhio magari un po' sbilenco, nel senso che non entriamo nel meccanismo americano. Aldo Cazzullo, cosa succederà davvero? Trump si ravvederà o qualcuno lo farà ravvedere, secondo te? Ma la cosa positiva appunto è che qualcuno lo sta già facendo ravvedere. Molti repubblicani avevano visto un po' Trump come, non dico come così, una persona, un impostore, non voglio dire questo, però sicuramente lo hanno un po' sofferto, lo hanno un po' patito. Cioè, per dire, tutto il clan dei Bush sotto ha sostenuto Biden, e c'è anche sono anche quelli insomma attivi, tipo non so, McConnell, che è il capo della maggioranza repubblicana al Senato, che non lo hanno un po' patito, sofferto, e penso che questi saranno i primi, sono già i primi che stanno dicendo di mollare. Io non credo a uno scenario da guerra civile strisciante, non ci credo, però non possiamo escludere che un qualche matto di questi, appunto, che come dice Oscar, stanno girando armati, non perda la testa. Non sarebbe la prima volta che accade in America. Sì, atteggiamento che un presidente tuttora in carica abbia un atteggiamento così è qualcosa di estremamente deludente, e forse dovrebbe far riflettere anche i tifosi italiani di Trump, sì, che non mancano. Non mancano. Io vi voglio far sentire tra l'altro un Berlusconi, Silvio Berlusconi, che dice, la sentite bene cosa dice, perché secondo lui ha perso Trump? Non l'ho sentito. Credo che abbia pagato con queste elezioni anche il suo atteggiamento molto spesso troppo di attacco, molto spesso troppo arrogante. Insomma, Berlusconi che dice, Aldo, è stato troppo arrogante Trump. Voglio dire, se lo dice Berlusconi, che a proposito di attaccare, era che tempo che fa, no? È vero, a Berlusconi non è mai piaciuto essere accostato a Trump, perché mentre lui aveva un ottimo rapporto con Bush figlio, e lo ha indotto anche a commettere alcuni errori, tipo l'appoggio alla guerra in Iraq, invece Trump non l'ha mai sopportato, ha sempre tenuto a precisare che non l'ha mai conosciuto. E, insomma, ha fatto un po' filtrare l'idea. Io ero il proprietario della televisione, non andavo a fare il buffone in televisione. Non ama questo paragone con Trump, no, anche se in comune in effetti hanno questi capelli dal colore improbabile di natura. No, io allora vorrei venire alle cose italiane. Vi ho convocato anche perché la scorsa settimana vari ascoltatori ci hanno chiamato dicendo: questo coronavirus ci deve veramente far cambiare sistema di vita. È un percorso, è un discorso anche un po' pericoloso, perché si rischia di entrare un po' in questi neomoralismi, io li chiamo, per cui l'ascoltatore diceva, per esempio, le palestre devono essere chiuse perché che bisogno c'è di andare in palestra? Si sopravvive anche senza andare in palestra. E allora io dico che si sopravvive anche senza andare al ristorante di Oscar Farinetti, senza bere un bicchiere di vino. Cioè si sopravvive, perché carità, si sopravvive facendo tante altre cose. Allora, questo è un discorso, ripeto, secondo me pericoloso, ma vorrei il vostro parere. Oscar Farinetti, gli imprenditori devono puntare certamente alla sostenibilità, a un nuovo mondo, però dobbiamo davvero cambiare le nostre vite quando tutto questo finirà? È inevitabile, e come? Beh, intanto se riuscissimo a cambiare qualche sentimento, passare dall'incavolatura al rispetto, dalla paura al coraggio, dalla sfiducia alla fiducia, non sarebbe male, ma non sono così ottimista da pensare che questo avverrà. Vede Milan, è successo questo, che questi giorni di lockdown e questa paura fottuta di morire e questa nuova dimensione, che non ci aspettavamo assolutamente di entrare in una dimensione del genere, no? Ci pare assurda, ci ha fatto riflettere sul superfluo. Il nostro modello sociale, si chiama società dei consumi, negli ultimi 40-50 anni si è scatenato sul superfluo, e questa è stata una roba meravigliosa, perché ci ha fatto aumentare di 25 anni la vita media, viviamo tutti meglio, sto parlando del nord del mondo, perché purtroppo nel sud del mondo ci sono situazioni ancora difficili, e quindi ci ha fatto entrare in una situazione mentale di una paura fottuta di morire. E stando in casa e ragionando sul superfluo, abbiamo visto i nostri armadi con vestiti per due generazioni, borse, scarpe per tutti i nostri eredi, insomma, abbiamo incominciato a ragionare sul superfluo. Quindi succederà questo. Secondo me vivere senza superfluo è una stupidaggine, perché il superfluo è meraviglioso. Il superfluo è quello che ci ha dato una gioia, perché se cominci a ragionare sul superfluo... Ma poi cos'è il superfluo? Diventano superflui anche i libri. Certo, in teoria il superfluo è tutto ciò che non è mangiare e fare all'amore, cioè le due robe che fanno in maniera che la specie continui, no? Ebbene... saranno bravi, vinceranno gli imprenditori che riusciranno a giustificare il superfluo. Cioè, secondo me la grande novità sarà questa: continueremo a vivere in un modello sociale che si chiama società dei consumi del superfluo, ma dovremo essere capaci di giustificarlo. E cioè, quindi, i prodotti e i servizi dovranno essere sostenibili, cioè in armonia con l'acqua, con la terra, con l'aria, in armonia col pianeta, dovranno essere funzionali a migliorare la nostra armonia con gli altri, eccetera. Può anche darsi che sia una serendipity, cioè che alla fine ci troveremo in una situazione migliore, ma dovremmo essere capaci di cambiare marcia. Quello però che dobbiamo anche capire che la decrescita è infelice, e in questi giorni lo stiamo comprendendo chiaramente. Secondo me una delle più grandi stupidaggini è la decrescita felice. La decrescita non è mai felice, è sempre infelice, e il motivo è perché a pagarlo saranno sempre i poveri. No, cita giustamente, si sbatte molto su questo concetto latusciano. Secondo me sbaglia no, cita la serendipità. Viva il superfluo. Bello questo slogan. Viva il superfluo. Ma che sia giustificato, cioè no, che abbia un senso. Cita la Serendipity perché è appunto il suo ultimo libro, ma mi permette di... Ecco, io avevo una domanda a proposito di libri da fare a Aldo Cazzullo. Io vorrei capire, Aldo, se tu, che hai descritto nell'ultimo libro di Vedere le Stelle, un Dante che è il poeta che inventò l'Italia, nel 1300, mi verrebbe da chiederti se entrando nella testa di Dante che cosa scriverebbe di questa, in fondo le pesti le ha vissute anche lui, no? La peste, anzi la grande peste del 300, credo che l'abbia intercettata nel finale di vita, e di questa Italia, di questo coronavirus, cosa direbbe Dante oggi? La mancata di poco. La mancata di poco, sì, effettivamente. Io scrivo che Dante inventa l'Italia perché ci dà non soltanto una lingua bellissima, l'italiano, ma soprattutto ci dà un'idea di noi stessi. Dante è il primo a scrivere l'Italia, lui che si inventa la parola bel paese. Per Dante l'Italia aveva conquistato il mondo due volte, con l'impero romano e con la fede cristiana. E per Dante l'Italia ha una missione, conciliare la grande tradizione classica, simboleggiata da Virgilio, con la fede cristiana. E l'incontro tra classicità e cristianità è l'inizio dell'umanesimo. Dante è un uomo del Medioevo, ma è anche, lo diceva Fernando Pessoa, il grande poeta portoghese, Dante è anche il primo umanista. E le pandemie, come dicevi giustamente Alessandro, ai tempi di Dante non erano delle dolorose sorprese come per noi, erano delle dolorose abitudini. In una Malabolgia, quella dove sono puniti i falsari, Dante mette in scena, proprio descrive una pandemia, descrive questi malati che si sostengono l'uno contro la schiena dell'altro, che si grattano le piaghe, una scena terribile. E la generazione successiva, quella di Dante, sarà spazzata dalla via della peste nera. La generazione dopo ancora fece il miracolo del Rinascimento. Sì. Secondo me noi non abbiamo diritto di paragonare le nostre sofferenze, che pure ci sono, alla grande guerra, per dire, piuttosto che alla pestilenza del 1348-49, è un altro ordine di grandezza. Però ogni generazione ha la sua guerra da combattere. E il momento più difficile della nostra vita, che è sicuramente questo, non deve essere il punto basso, deve essere il punto alto. Del resto, a rivedere le stelle, Dante lo dice non quando va in paradiso, lo dice quando esce dall'inferno e davanti alla montagna del purgatorio da scalare. Ecco, sì, noi non siamo l'inferno, ecco, diciamo che siamo il purgatorio. Ecco, tu dici che però ha costruito in qualche modo, ha delineato un'Italia. Giustamente fai notare che quando si presenta Virgilio la prima cosa che dice non è le origini, ma Mantua me genuit, cioè Mantova, la Lombardia, no? Questo è il primo aspetto che colpisce di Virgilio, nel Virgilio di Dante. Ma che Italia è? Davvero un'Italia costruita, unita? Perché io quell'unità che tu descrivi, anche non, che Dante in qualche modo prevedeva, non la vedo tantissimo adesso. Forse... Ecco, infatti hai fatto bene a farmi fare questo. Virgilio, la prima parola che dice è Lombardia, dice che i suoi parenti, i suoi genitori erano lombardi. Ecco, l'idea che 700 anni fa si parlasse già di Lombardia è una cosa che mi emoziona. Naturalmente Dante non pensa all'Italia come a uno Stato, perché certo, il potere politico è l'impero, no? Ed era anche il Papa a potere politico, cosa che lui non ama, tant'è che mette quattro papi del suo tempo all'inferno e due in purgatorio. Per lui il Papa non deve essere un sovrano assoluto, deve essere un'autorità spirituale, così come è diventato. Ma Dante rimproverava all'Italia di quel tempo già proprio la disunità, non tanto disunità politica, quanto proprio gli uni contro gli altri, Guelfi contro Ghibellini, Bianchi contro Neri, Montecchi contro Capuleti, Dante è anche il primo a parlare di Montecchi e Capuleti, su cui poi Shakespeare costruirà la grande vicenda di Giulietta e Romeo. E scrive Dante, le persone che vivono dentro lo stesso fosso, la stessa cerchia di mura, cioè la stessa città, passano il tempo a combattersi. I mediocri fanno politica e i migliori la evitano. Cambiano troppo spesso i sovrani, i governi, e una legge fatta a ottobre non arriva a metà novembre. Sembra il ritratto dell'Italia di adesso. Abbastanza previdente. Italia, dolore, ostello, nave, tanta nocchiera, un gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Dante ama l'Italia, per questo la critica, perché la vorrebbe diversa e migliore. Sì. Purtroppo non siamo cambiati molto da allora. Per concludere, Oscar Farinetti, da imprenditore le piace il blocco dei licenziamenti che si sposta di mese in mese? Io ritengo, poi dopo dicono, ah beh, sei la radio di Confindustria, io invece ritengo che è un provvedimento che preservi il lavoro, forse in questo momento serve. Certo, non è la soluzione, perché poi alla fine se il lavoro non c'è, il lavoro non c'è. Però in questo momento dobbiamo anche preservare le tensioni, i rischi di tensione sociale, o no, Farinetti, mi dica. Vabbè, certo, questa è la prima mossa. Questa è la prima mossa da fare, concordo con lei che bisognava farla. Ora però bisogna pensare poi, però bisogna pensare al futuro come impostarlo, perché per esempio per quanto riguarda il lavoro ci sono quelli dei i dipendenti privati che sono in cassa integrazione a 900 euro al mese o anche meno, e i dipendenti pubblici che continuano a prendere lo stipendio pieno. Insomma, c'è un po' di discriminazione, ma è proprio un problema del nostro paese. E Aldo Cazzullo ha centrato il tema partendo da Dante. Vede, secondo me è successo questo, che la biodiversità che abbiamo nella nostra terra, che come sapete è la più alta al mondo, si è trasferita nei nostri cervelli e nei nostri cuori, per cui siamo individualisti. Siamo il paese più individualista del mondo, ognuno pensa che il proprio problema sia il problema. Infatti siamo il paese in assoluto che ha più corporazioni. Vede quanti ASSO ci sono: ASSO Bagno, ASSO Pidee, ASSO Cesso, ASSO tutto. Ci scriveranno. Cioè abbiamo, siamo tutti corporativi, quindi abbiamo, ultimamente abbiamo più persone che rappresentano i rappresentati, e stiamo discutendo infinitamente su dei temi per cui ognuno presenta il proprio problema come il problema assoluto e pensa che risolvendo il proprio problema si risolve il problema di tutti. Non è così, c'è una scarsa accettazione del compromesso, c'è poca moderazione e c'è un sacco di individualismo. Secondo me finirà così, che da questo Covid i migliori usciranno ancora migliori e i peggiori usciranno a dimostrarci che non c'è limite al peggio, sì. Cioè ci sarà un effetto clessidra ancora più grande, sì. Però se i migliori, come io penso, sono almeno la metà della gente, perché sa, adesso magari immaginiamo che i peggiori siano di più perché ci sono dei mezzi che amplificano il linguaggio dei peggiori, sa, la gente per bene non fa rumore, ma se è vero che i migliori sono la metà è un bel popolo, nel mondo vuol dire 4 miliardi di persone, che è la popolazione del 1975. Quindi dobbiamo rifondare il pianeta sui migliori. Per esempio adesso Biden farà un gesto, secondo me, che sarà importante. Ripristinerà l'accordo di Parigi sul grande tema dei cambiamenti climatici e della sostenibilità. E se gli Stati Uniti d'America, che sono il paese più potente al mondo, anche quello che lo inquina di più insieme alla Cina, riprende un percorso di servizio alla vita umana sul pianeta con attenzione al tema climatico, secondo me sarà un bel gesto. Il fatto che un migliore, perché secondo me Biden è migliore rispetto a Trump, sia andato al comando del paese più importante al mondo, secondo me è un bellissimo segnale. Ma sì, anche io credo che ci sia un'amplificazione di ciò che già siamo alla fine di tutto questo. Quelli che erano buoni saranno buoni, quelli che non lo erano non lo saranno. Anch'io la penso così. Ma voglio ringraziare Oscar Farinetti, patron di Italy. Voglio ringraziare Aldo Cazzullo, trovate in libreria il suo libro A rivedere le stelle, Dante, il poeta che inventò l'Italia. Leggetelo, perché è una rilettura, ovviamente in un anno anche particolare, il settecentennale della morte di Dante, molto molto particolare, molto interessante, una rilettura dell'Italia. Eccoci qua alle 9:32 minuti, andiamo in pubblicità, ma è spuntata Maria Piera Ceci, attenzione, è spuntata di soppiatto, soppiatto per parlare di scuola, tra pochissimo. 1, nessuno, 100 Milan. Dopo l'interrogazione è andata male in matematica, ha provato ad usare la tecnica Cotticelli, ma la maestra non gli ha creduto. Tutti a scuola! Eccoci qui, Maria Piera Ceci, cioè è diventato un mito adesso. Cotticelli è il generale che si è dimesso dalla regione Calabria. Useremo tutti il metodo Cotticelli, metodo Cotticelli. È sempre il momento per usare il metodo Cotticelli. Da Giletti ha detto: forse ho avuto un malore, non ero lucido in quell'intervista nella quale praticamente si è autolicenziato. Sì. Tutti a scuola? Tutti a scuola. Insomma, mica tanti, in realtà c'è rimasto poco, c'è rimasta la Campania con tutti chiusi, scuole chiuse dalla scuola dell'infanzia alle superiori, poi c'è la Puglia, caso Puglia stamattina è veramente una cosa da raccontare, comincia venerdì con le due ordinanze del TAR, pare che però ha prevalso quella per cui le scuole medie ed elementari avrebbero dovuto riaprire, perché la Puglia non è zona rossa, quindi le scuole medie, seconda e terza media, chiuse solo in zona rossa, Emiliano non aveva motivo di non riaprirle. In effetti durante il weekend le ha riaperte, ma ha fatto infuriare Lazzolina, stamattina ha ribadito, perché che cosa ha fatto? Ha scaricato sostanzialmente sulle famiglie la decisione, ha detto: io riapro le scuole, secondo me voi però a scuola non ce li dovete mandare perché non è sicuro, che è inaccettabile, perché alle famiglie bisogna dire la scuola è sicura quindi mandateli, oppure la scuola non è sicura e dunque non potete mandarli. Quindi sono le famiglie che devono decidere, sì, in cuor loro. Poco fa proprio Emiliano ha ridetto: evitate di mandare i bambini a scuola in presenza, questo è più sicuro sia per i bambini che per la salute pubblica, scegliete se possibile la DAD da casa. Dunque, tra l'altro, i presidi poverini staranno impazzendo, credo che sia il quinto, sesto provvedimento in 10 giorni durante il fine settimana, non sanno proprio che pesci prendere. Comunque, insomma, che c'è rimasto? Vanno a scuola elementari e medie più o meno in quasi tutte le regioni non rosse, certo. Anche se moltissime classi sono in quarantena, lo dobbiamo ricordare. La Tutto Scuola ha fatto un calcolo nel fine settimana: 362.000 gli insegnanti impegnati nella didattica a distanza, siamo circa la metà del totale, 45%, mentre gli studenti sono 3.700.000, cioè a casa. A casa, fra cui i nostri. E va bene. Sì, fra cui i nostri, però molti poi dicono: ma chi se ne frega dei vostri, ma i nostri, perché siamo cittadini come tutti, come noi, sono tanti in questa e quindi situazione. Abbiamo tutte le difficoltà che hanno le altre famiglie. Con i ragazzi in casa, perché di questo, no, che vogliamo parlare un po' questa mattina. Sì, con il nostro ospite che salutiamo, è una voce amica anche di Radio 24, psicoterapeuta di età evolutiva, scrittore, ha scritto tanti libri, Alberto Pellai. Buongiorno Alberto e ben ritrovato. Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno Alberto, molti libri, fra cui l'ultimo, Mentre la tempesta colpiva forte, quello che noi genitori abbiamo imparato in tempo di emergenza, di Agostini. Abbiamo imparato che tenerli a casa è dura, che seguirli nella didattica a distanza, anche solo sentirli parlare in stanza accanto è dura, Alberto, però quello che vogliamo chiederti, vabbè, noi famiglie, noi genitori facciamo tanti sacrifici, ma sta un po' nel ruolo, insomma, ma invece che sacrifici stanno facendo i nostri figli in questo periodo e che conseguenze potrebbero pagare? L'ha detto lo stesso comitato tecnico scientifico, che i ragazzi devono tornare in classe al più presto oppure gli alunni avranno danni psicofisici. Sì, i sacrifici per i nostri figli sono tanti, perché effettivamente l'età evolutiva ha bisogno di tutto tranne che di didattica a distanza, reclusione, limitazione della socializzazione. Fondamentalmente i fattori che sostengono la crescita sono proprio tutti quelli che il lockdown rende impossibile e che la didattica a distanza tra l'altro va a impattare molto forte. Tra l'altro esistono alcune analisi costo-benefici che, proprio fermandosi esclusivamente alla salute e al benessere dei minori, dicono che effettivamente didattica a distanza e lockdown impattano sulla salute in età evolutiva molto più dell'emergenza da pandemia. Ecco, i ragazzi sono un po' i grandi assenti da questo dibattito. È vero che li ho fotografati anch'io, li ho messi sui social, questi ragazzi che davanti al Vittorio Veneto hanno protestato e si sono messi a studiare, a fare didattica a distanza di fronte alla scuola, ben distanziati. C'è una ragazzina di 12 anni, Anita, che si è messa a studiare in questi giorni davanti alla scuola Italo Calvino di Torino. Però in realtà sono molto remissivi, quasi passivi, li vedo un po' inebetiti, non stanno partecipando a questo dibattito. Anche questo è un brutto segnale per loro, secondo te, Alberto? Ma credo che siano davvero invisibili e che nessuno consideri che possano avere un ruolo attivo dentro tutto questo. Cioè, fondamentalmente loro si sono fatti mettere dove hanno voluto metterli, sono stati molto molto obbedienti. Credo che in questo secondo giro si sarebbe potuto immaginare qualcosa di molto più attivo rispetto al fatto che, proprio perché sono adolescenti e competenti, ecco, queste due caratteristiche hanno fatto dire allora loro li possiamo chiudere in casa, tanto sono capaci di. Esatto. Ma invece l'idea è che se uno è competente e capace, ecco, gli chiedi di fare le migliori cose che è in grado di fare, non le peggiori o quelle che comunque fanno più comodo in quel momento. In generale credo che la riflessione che vada fatta è proprio sul fatto poi che è come se dentro questo progetto scuola non ci fosse un pensiero forte, non c'è un buon capitano che tiene in mano il timone, dà una direzione chiara, definisce quali sono le priorità, e quindi, un po' come descrivete anche rispetto alla Puglia stamattina, ogni giorno possono arrivare tre messaggi diversi che fanno andare in tre direzioni diverse, e a quel punto si continua a girare intorno alla rotonda non capendo più qual è la strada maestra. Infatti, secondo me arrivano anche tanti messaggi di genitori che vedono e registrano i loro figli in regressione. Ecco, utilizzo una parola, per esempio, usata in un messaggio da un papà o da una mamma. Prego. È verissimo, nel senso che soprattutto questo lo vediamo tanto, l'abbiamo visto tanto con i più piccoli, perché sono quelli che più aumentano le dimensioni della dipendenza verso gli adulti, più perdono autonomia e più regrediscono, e quindi perdono proprio quelle tappe evolutive che già avevano fatto. Rispetto agli adolescenti, il tema è che più che parlare di regressione, io parlerei proprio di deprivazione, e il rischio grosso per loro è poi la demotivazione, cioè un disappassionarsi, no, al loro progetto di vita, al percorso di crescita. E quindi una riflessione anche che faccio è questa, cioè se era così probabile che comunque si ritornasse nella logica della didattica a distanza o digitale integrata, che dir si voglia, e allora era davvero fondamentale che i docenti venissero poi sostenuti a farla bene, mentre è stato fatto un lavoro pazzesco sul rispetto di tutti i protocolli di prevenzione, è stato veramente fatto tanta formazione su tutta la gestione di quello che sarebbe dovuto succedere in aula, ma adesso tornano a fare didattica a distanza. Un po' come, la facevano in primavera. No. Un'ultima battuta invece sulla Puglia, appunto, buttare sulle spalle delle famiglie la decisione se mandare a scuola i propri figli, stiamo parlando anche di bambini, quindi insomma la responsabilità è davvero importante. Come la possiamo leggere? Perché insomma le famiglie non sono in grado oggettivamente di valutare se sia il caso o meno di mandare un figlio a scuola. Come faccio a sapere io se la mia scuola è sicura o no, se non me lo dice l'autorità? Guarda, dal punto di vista psicologico è la peggiore delle mosse che si possa fare, perché chi ha una struttura ansioso-fobica continuerà a lavorare sulla sua paura e sulla sua ansia, ingigantendola e sentendosi investito del bisogno di salvare il mondo e comunque di salvare le persone all'interno del proprio nucleo familiare. Quindi sarà una promozione del ritiro sociale. Chi invece è nell'altra struttura, quella che sente che c'è bisogno di mandare avanti la vita, che bisogna sostenere la crescita, da una cosa del genere tira fuori solo una rabbia enorme e quindi aumenta tutta la dimensione della protesta. Alla fine sono tutti contro tutti, in un momento invece in cui noi dobbiamo davvero sentire che insieme costruiamo un grandissimo progetto di solidarietà collettiva, dove però non dobbiamo costantemente ricevere messaggi che ci confondono, ma dobbiamo ricevere messaggi che ci compattano verso un obiettivo comune. Eh sì, questa sarebbe questa seconda ondata ci sta rendendo alla faccia della prima ondata, che ci doveva rendere migliori, ci sta rendendo tutti poi peggiori. Nel ringraziare Alberto Pellai e nel ringraziare Maria Piera Ceci, io condivido quello che scrive un ascoltatore, che lo dice in maniera brutale, cioè la DAD, la didattica a distanza, non è scuola. E io, con tutti gli sforzi che si stanno facendo, tranne qualche eccezione, ci sono delle eccezioni che ogni tanto raccontiamo di scuole davvero che fanno delle cose bellissime. Non è una critica agli insegnanti, anzi si stanno interessando tantissimo, si stanno impegnando, ma non è scuola, dai, non no, c'è... La scuola è didattica, chiaro, ma è anche socialità, vabbè, l'abbiamo raccontato mille volte, lo sappiamo. È quello che si può fare in questa situazione del cavolo, questo possiamo dirla così. Va bene, cara Alessandro, Maria Pia, sempre ottimista? Io molto ottimista. Ti piegheremo, ti spezzeremo. Molto ottimista, finché ci sarà un ultimo ragazzo che va a scuola. Stamattina ne ho visto un bambino con la cartella e ho detto: vedi che la nostra sigla ha senso. Noi realisti ti spezzeremo, ci sentiamo lunedì. Ciao. Uno, nessuno, 100 Milan. The cab driver won't stop to let me in. Mr. Cab driver, don't like my kind of skin. Mr. Cab driver, you're never gonna win. Mr. Cab driver won't stop to pick me up. Figlio che fa la seconda in un istituto professionale, per merito dei laboratori questa settimana andrà a scuola 4 giorni su 6. È vero, i laboratori salvano. Caro Leonardo Manera, iscriviti in un istituto tecnico che così puoi uscire. Buongiorno. Buongiorno, come va? Noi io benissimo. Tu dove sei? Anch'io. A casa. Ma devo dire che questa volta è un po' più faticoso questo lockdown, rispetto al primo. Ma hai notato non c'è un controllo? Non c'è un controllo, è tutto tranquillo. Tu hai notato controlli? Io non ne ho visti di controlli, però insomma, ieri sono stato alla cresima di mio figlio in chiesa, quindi non ho visto. E come funziona? Spiegaci come funziona. Funziona che si entrava, diciamo... Come si fa per esempio la cresima sulla fronte, scusa, che... E l'olio sacro sulla fronte, come si fa? E il prete preposto, immagino, dopo essere stato tamponato, lo dà. Ah, lo dà, perché l'alpino, non è una battuta, l'alpino in regia ci dice che si è fatto col cotton fioc, cioè non mette il dito il prete, eri disattento. Era il momento clou, Guarda, ho anche le foto, adesso dopo andrò a controllare. E gli mette il dito? Non va bene. Comunque mi è sembrata una messa normale, l'unica differenza è che non ci si scambia il segno di pace. Ecco. Certo, e in teoria neanche l'olio poi, sacro. Anche per esempio quando si fa la comunione, il prete prende l'ostia con la sua mano e la mette nella mano del... Come devi fare? Non lo so come devi fare, però scusa, non si possono passare una penna a scuola. Non ho capito. Se le messe sono consentite, poi si fa anche la comunione, a meno che non te la dia con una pinzetta. Sono un po' le incongruenze di questo periodo. Vabbè, no? Ma tu adesso vuoi fare il monologo o lo vuoi fare dopo? Non ho capito. Cosa... Dipende quanto tempo ho a disposizione. Adesso tre minuti e mezzo. Non so se ce la faccio. Vabbè, allora facciamolo, raccontaci anche un dopo. Po' la cresima, com'è andata? Raccontaci un po' la tua situazione di vita. Io voglio sapere... Qual è la tua situazione? Perché è già partita questa musichetta? Non lo so, il alpino mi ha guardato e ha detto: ho messo questa base, così, no, ma è la base del programma, è la base del programma. Ma da quando in qua parliamo su una base del programma? Adesso, alpino, ti sei inventato sta cosa. Prego, Leo. Mi sono vestito abbastanza elegante, mi sono messo una giacca e una cravatta nera che ho dal 1989, tra l'altro. Ho delle cravatte, io non uso più cravatte, ma fine anni 80 le mettevo. Non ne ho più comprate, ne ho comprata solo una negli ultimi 20 anni. Allora metto ancora queste cravatte che avevo nel 1989 che non comprai nemmeno, per la verità. Mi furono donate perché facevo una telepromozione di un prodotto di un'azienda che faceva cravatte. Ho a casa tutte queste cravatte ancora del 1900, no, che risalgono a quel periodo. Te ne racconto una gaffe che ho fatto io col signor Marinella, vai. E quindi mi sono vestito elegante, prima ho fatto la doccia, sono andato là un po' prima. Ecco, la cosa che hanno fatto è che le fotografie venivano fatte per... gli orari erano diversificati, quindi bisognava arrivare a una determinata ora, si facevano le foto, poi si entrava scaglionati in chiesa, la messa era assolutamente normale. Però al momento dell'olio sacro eri distratto, quindi non hai visto. Mi sono distratto, aspetta che vado a vedere la fotografia. Come il prete, come il prete. Ma non è che io sia un esperto di cresime, quindi ho notato, cioè però, non sono stato lì a guardare attentamente, vediamo se capisco qualcosa. Vabbè, intanto ti racconto questa cosa, che questa gaffe che feci col signor Marinella. Marinella è la cravatta a Napoli, no? Allora un giorno, vari anni fa, era una cena e c'era anche Marinella. Io lo sapevo e mi sono messo, io non amo le cravatte, mi sono messo l'unica cravatta Marinella che avevo. Ho fatto anche quello da signor Marinella. Sono andato lì, guardi questa cravatta Marinella. Lui mi ha guardato e mi fa: ma chi sta? È della collezione di 25 anni fa. Mi ha detto tipo una roba del genere. Le mando una cravatta nuova, perché è praticamente, sì, è vero, non l'ho mai ricevuta comunque. Cioè, volevo fare gradasso col signor Marinella e lui mi ha redarguito subito, perché era tipo del 1840, insomma, delle collezioni. Vabbè, hai trovato la foto? L'ho trovata, sì. Si vede il prete chino sul mio figlio. Addirittura, vicino. Vicino, chino. Per forza, se deve... come devi fare altrimenti? Ma ha il cotton fioc in mano per dare l'olio ha sacro? Ha qualcosa in mano, non si vede bene. Cioè, ha la mano, diciamo che ha la mano. Il prete ha poi la mano. Poi da lì a capire... Da lì a capire è difficile. Vabbè, lo riesci a capire. Certo, se tu non fossi stato distratto e avessi visto con i tuoi occhi, magari... Non potevo vedere bene perché ero dietro. E quindi... Senti, ma chiedilo oggi a Beniamino. E dici: Beniamino, ma ti ha dato l'olio sacro con il pollice o usando un cotton fioc? E così domani... Avrà usato il cotton fioc, però era attaccato a lui per forza, insomma, no? Finché, l'abbiamo detto, finché sono consentite le messe e tutte le celebrazioni. Vabbè. Fatto così. Dai, secondo me non se ne è accorto neanche Beniamino, non saprà dirmelo nemmeno lui. Era distratto anche lui, era distratto anche lui. È diventato però un soldato di Dio, quella cresima si diventa soldati di Dio, giusto? Bene, bene, bene. Allora andiamo con questa bella informazione al giornale radio. Poi dopo riprendiamo dal monologo, Guarda che non ce lo siamo scordati, devi lavorare. Ce l'ho, Vai. Uno, nessuno, 100 Milan. Giovani sono sempre stati invisibili, finché ci sono i vecchi che non mollano l'osso, i vecchi giovani li vedono come una minaccia, perché li portano via lo stipendio fisso, buono, li mandano in pensione prima, li fanno sentire vecchi, magari sono pure meglio di loro e anche maggiormente preparati. Cosa gliene frega i vecchi dei giovani? Siete tutti così bravi, ma loro cosa bisogna fare? Avrebbero potuto riaprire le scuole a maggio, continuare anche a giugno, luglio, agosto e chiudere un paio di mesi in inverno. Valera, ma sto pissi pissi, partito pissi pissi qua, ma che sei veramente o no? Se no ho voto subito. Pissi anche tu, pissi anche tu, vota pissi anche tu, super sovranista italiano, ti difende ogni giorno di più. Così è più entusiasmante, effettivamente, o più inquietante. Allora, ci stiamo diffondendo sempre di più, sta crescendo il pissi, partito super sovranista italiano, PSSI. Devo dire che moltissimi... Dai, che ci presentiamo, moltissimi. Alle prossime elezioni mi presento. Ma sai che davvero, sarebbe ma fallo, divertente. Ma fallo! No, creare un partito parodia Sai che potrebbe funzionare, secondo me? Io credo che le firme per presentarmi le raggiungerei. E diventerebbe anche un atto di denuncia contro il sistema ormai allo sbando. Bravo, bravo. Molti ci segnalano che il prete banalmente si lava le mani prima delle funzioni che prevedono che io non ho, tocchi. Non ho sollevato, polemiche. Vabbè, dai, ho notato solo quella cosa. Ma dai, dai, eri distratto questo. Sì, ero un po' distratto perché guardavo il messaggio. Allora, aumentano i contagi da Covid e aumenta anche il moralismo strisciante, che è probabilmente la caratteristica più inaspettata di questa nostra fase. Pensavamo di essere noi italiani un popolo libero dopo faticose battaglie, pensavamo di esserci liberati da censure e moralismi, invece no, ogni tanto quelle vecchie amate caratteristiche tornano a galla, soprattutto in periodi come questo. Avete visto che il CT della nazionale Mancini è positivo al Covid, asintomatico tra l'altro, ma su molti quotidiani c'era scritto Mancini positivo al Covid, sui social aveva pubblicato una vignetta negazionista, come dire c'è un nesso, se lo merita perché aveva pubblicato quella vignetta. Pensate se la stessa logica venisse applicata anche con le altre malattie. Ha il diabete, sui social aveva pubblicato la foto di una torta. Oppure ha un eritema, sui social aveva pubblicato una foto di un giorno di sole. Oppure ha l'influenza, sui social aveva pubblicato la foto di un influencer. Vabbè, questo non c'entra, però l'idea è chiara. C'è un moralismo evidente che si diffonde insieme al Covid e fa più contagi del Covid. Come quando c'è una donna in minigonna che ha subito violenza e qualcuno dice se l'è andata a cercare, solo che d'ora in avanti non servirà neanche più la minigonna, ma la vignetta di una donna in minigonna o la sua foto. Ha subito violenza, aveva pubblicato la foto di una donna in minigonna. Siamo lì ormai. Allora io proibirei per legge tutte le vignette e le foto, così risolviamo il problema. Tutti a difendere la Francia, la libertà di espressione, quando sono state pubblicate le vignette satiriche di Charlie Hebdo, che hanno causato tutti quegli atti di terrorismo. Ma poi ci affanniamo a scrivere sui quotidiani che però Mancini, dopo aver pubblicato una vignetta negazionista sul Covid, aveva chiesto scusa. Ha dovuto chiedere scusa a causa di tutte le reazioni che ci sono state ed ora evidentemente la punizione divina. È positivo al Covid ma asintomatico perché aveva chiesto scusa. Se non l'avesse fatto probabilmente avrebbe preso il Covid in forma più severa. Quindi la punizione è stata un po' meno severa perché si era pentito. Adesso sulla panchina nazionale per l'imminente amichevole Mancini probabilmente non potrà sedere in panchina. Al suo posto ci sarà, a quanto pare, Evani, al quale consiglierei di mantenere uno sguardo serio e contrito anche in caso di gol, senza eccedere mai in festeggiamenti o sorrisi sconsigliati in tempo di Covid. Quello che spesso non si vuole accettare è che il dolore implica poi il sorriso che serve per ripartire o, come avrebbe detto il nostro amato Premier, per vincere la sfida della ripartenza. Invece forse vorremmo tornare a castighi e auto da fè per essere sicuri che dall'alto ci guardino benevolmente e non ci puniscano troppo. Siamo un paese laico, è vero, ma fino a un certo punto. Abbiamo sempre paura che qualcuno ci cacci dal paradiso terrestre. In fondo, pensiamo, Adamo ed Eva furono cacciati solo per una mela. Perché non dovrebbe succedere per una vignetta irriverente o ancor peggio magari per la movida? Stiamo tutti a casa allora a dedicarci solo alle questioni serie, preferibilmente in silenzio, senza sorridere mai. Scherzi e lazzi forse solo a carnevale, come nel Medioevo, ma per poco, prima di rituffarci in qualche altro atto di penitenza. È proprio vero, le buone, care, vecchie abitudini non muoiono mai, probabilmente perché quelle non possono essere mai contagiate dal Covid. Bravo Leo, questo moralismo anche a me infastidisce, ma guarda chi è venuta a ritrovarci, la nostra opinionista Maria da Roma, 91 anni sontuosamente portati, sarda ma romana, eccoci. No, romana, solo sarda. Sarda, ecco. Sarda e basta. Sarda di dove? Di Sassari. Di Sassari. Come sta Maria? Cosa ci vuole dire oggi? Cosa ha osservato del mondo oggi? Guardi, delle cose di un ridicolo che non è neanche commentabile. Aia, allora, ha ripreso questa trasmissione il collegio. Il collegio, certo. Sì. Sei seguitissima dagli adolescenti, impazziscono. Certo, perché così si possono sentire quasi intelligenti ascoltando quegli idioti lì. No. Cioè, effettivamente non brillano per ecco, nozioni. Per niente, non brillano per niente. Allora, l'anno scorso una delle chicche era stata che l'Italia è una monarchia e il re è Mussolini. Ah, però. L'altro giorno, martedì scorso, è stato invece che il muro di Berlino servì da perseparare i bianchi dai neri o i cristiani dai. Sì. Ma secondo lei, Maria, non sono un po' anche inventate, no? Sono davvero... Io ho l'impressione, spero, però ho visto una delle ragazze dell'anno scorso che aveva avuto questo diploma di terza media, perché pare che fosse la più brava, che è già all'università. Questo a me mi lascia molto perplessa, quindi spero che sia tutta una fiction. L'altra cosa invece è che lei si dà tanto da fare per cercare di attirare l'attenzione su quei poveracci di nostri pescatori di Mazzara, che sono prigionierini. Ma perché non si rivolge alla D'Urso? L'altro giorno la D'Urso, tutta vestita tipo fatina azzurra, c'è stata con gli operai in rivolta di Torino. Dovrebbe mai giunte. Sì. Ricordiamoci l'immagine, Leonardo, l'altra volta ci aveva dato Maria un'immagine incredibile di Barbara D'Urso. Cioè, ricordiamo, cos'è che secondo lei agita le mani? Perché? Perché così la usano per produrre energia. Deve essere collegata. Quelle pale che sì, ci le sono, pale eoliche, certo. Ecco, che sono, perlomeno in Sardegna, sono quasi sempre ferme con tutto il vento che c'è, non so come mai. Vabbè, questo è un altro discorso. Allora, lei, tutta vestita di turchese, mani giunte all'altezza del viso, sa, tipo asiatica, che gli dice: da vi sono vicina, mi sarà sempre vicina. Il mio cuore non so cosa, vabbè, e dovete aver pazienza, però adesso mi dovete scusare perché ho un altro appuntamento importante a chiuso. Ma qual era l'importante? E chi c'era? Erano gli amori di Garco. E Rossi. Insomma, cioè, si cambia pagina in un rotocalco, si cambia pagina. Sì, quindi alto e basso, ecco, la vita è così, no? Ma lei capisce che, insomma, siamo passati da una sera, una, che mi sono riconciliata con la Rai, che ha fatto riproposto un programma di Gigi Proietti. Finalmente, una persona intelligente e colta, che non aveva bisogno di queste cutrettole che vagano seminude o sedute scosciate fino all'inguine così. Vabbè, Maria, niente. Allora, facciamo così. Oggi abbiamo sistemato il collegio. Glielo dirò subito ai miei figli che vedono tutti questi video. Hai presente, Leonardo, il collegio in cui gli studenti dicono delle risposte effettivamente che sembrano o concordate oppure scelgono proprio i peggio dei peggio? Cioè, come si fa a dire l'Italia? Beh, una monarchia, se io ricordo quello che dicevamo alle medie, io e tanti miei compagni. Sì, insomma, dai, però se tu gli vai a mettere una telecamera, è chiaro che l'autore poi va a scegliere. Certo. Quello che rende più scandalo, no? Certo. L'Italia è una monarchia e Mussolini è re. Ma dai, su, ma come si fa? Vabbè, Maria, ci dobbiamo salutare, ma ogni tanto ci sentiamo qui, eh? Andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Ragazzi, come l'anno scorso, perderò tutti i bimbi che con lo scuolabus dovevano venire alla fattoria didattica per visitare gli animali e fare una passeggiata nel bosco. Allora ho pensato che sto costruendo un carretto tipo medievale dove metterò dentro tutti gli animali che posso mettere, che riesco a portare, e andrò io nelle scuole facendo conoscere gli animali nel giardino. Sì, Leo, le hanno presi 5 stelle i voti, li prende anche te, tranquillo. parodia per parodia li prendi sicuramente, c'è un'affinità, no? Comico, il grande capo di là, comico sei tu. Vai tranquillo che fai un 10-15% li fai tutti. Con il pissi, Adesso. Sì, è deciso. È deciso. Anzi, comincerò a raccogliere le adesioni. Vabbè, tanto potrei lanciare questa campagna. Ma ti candidi dove? Alle regionali, alle comunali, alle nazionali? No, direttamente alle politiche. Alle politiche. Alle politiche. C'è la raccolta firme. Senti, mi sembra più concreta l'ipotesi Melania. Hai visto che Melania, Trump, qualcuno parla già di divorzio, abbandono della Casa Bianca. Insomma, ricordiamo che Leonardo Manera ha fatto un accorato appello a Melania, una lettera spedita, non è ancora arrivata risposta. Sì. Per dire vieni qui da me proprio in piazza Udine in piazza Udine per iniziare una storia d'amore. Ho detto che parlo con Jimmy per vedere se la può assumere al bar Jimmy. No, ho anche prospettato una vita di coppia molto gratificante, quindi non vedo perché Melania, che è sull'orlo del divorzio, non dovrebbe accettare questa mia proposta. Siamo praticamente anche quasi coetanei, credo. Quindi sì, ha 50 anni, anzi è più giovane di te di un paio d'anni. Sì, di poco. Quindi voglio dire, Melania, io domani entro al bar Jimmy e potrei vedermi Melania che mi fa il caffè. Perché no? Non è una persona come le altre che può preparare un caffè. Sì, no, ma non lo devi dire a me, lo devi chiedere a lei. O la First Lady, perché non può venire al bar Jimmy a fare un caffè, venire con me al sabato al centro commerciale, guardare insieme qualche televendita. Ecco, questa è la partita di calcio che le prospetta. Sì, la vita, vabbè. Vieni, Melania, ti aspetto qui in piazza Udine, fai presto. Non lo so come finirà questa storia. Certo, c'è da dire che tra l'altro le ho anche proposto qualche, diciamo, diversivo succoso, per esempio andare ogni tanto ad Abano Terme o a Montegrotto, cioè non è che la voglio confinare per sempre in casa. È vero. Possiamo andare una volta ad Abano, una botta di vita ogni tanto si può fare. Sì, sì, sì. Mi posso spingere fino a Cesenatico qualche volta. Vieni, Melania, saremo insieme noi due. E se c'è qualche medusa nell'acqua di Cesenatico ti proteggerò io. Dici che l'ho invogliata? Sì, sì, magari una piadina anche, già che ci sei, una piada. Va bene, dai. Torniamo seri. Ci siamo chiesti, ma effettivamente quest'anno, se io dico qual è il fatto di quest'anno, direi che tutti siamo, come dire, assediati dal tema coronavirus. Però mi sono chiesto questo, c'è un libro, tra l'altro il libro dei fatti di Necronos, che è un po' un must anche per ogni giornalista e non solo, e raccoglie tutti i fatti dell'anno. Quest'anno tra l'altro siamo a 30 anni. Saluto Antonello Spila, che è il direttore editoriale del gruppo di Necronos. Buongiorno Spila, grazie. Buongiorno Milan, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie all'invito. Allora, c'è da dire che sarà un po' drammatico forse per voi trovare altri fatti, in realtà è un po' il vostro lavoro, cioè, il coronavirus ha annullato tutti i fatti e sembra tra noi da sempre, in realtà già l'anno scorso non c'era, no? Esatto, o meglio. Diciamo che sul termine del 2019 già si affacciava, insomma, alle cronache mondiali, perché era, credo, il primo caso sia orientativamente della metà di novembre nella provincia di Hubei. Quindi già nel 2019 c'era come fatto, sì, esatto, certo, esatto. Marginale forse. Non... E proprio questo ci ha indotto, ci ha consigliato in qualche modo di dedicare uno speciale all'interno del nostro libro dei fatti proprio al coronavirus, al Covid. Sì. E il rischio però di annullare tutti gli altri fatti c'è, almeno nella percezione delle persone. In realtà di tante cose sono successe, ovviamente, no? Per esempio, la sensazione ormai è che quasi tutte le notizie siano in qualche modo declinate in funzione del coronavirus. Ma in realtà il nostro ruolo è quello proprio del libro dei fatti, è quello di in qualche modo disegnare una cronologia ragionata dei fatti, di tutte quante le notizie che sono accadute nel corso dell'anno e che non sono, fortunatamente mi verrebbe da aggiungere, solo ed esclusivamente coronavirus. Ragionando del 2019, quindi l'anno di cui noi teniamo in considerazione nel libro dei fatti, nella trentesima edizione del libro dei fatti, abbiamo per esempio il reddito di cittadinanza. È vero. Il 28 gennaio del 2019 viene introdotta questa misura che è un po' il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, oppure la cosiddetta quota 100 di cui sentiamo ancora tanto parlare, che compare sempre nello stesso frangente in Gazzetta Ufficiale, ed è quello invece il cavallo di battaglia della Lega. Quindi in casa nostra comunque tante altre informazioni. Tante cose sono successe. Due esecutivi a guida di un unico premier, che è Giuseppe Conte, sì. E la guida del Partito Democratico che passa da Martina a Zingaretti. Quindi comunque i fatti sono tanti, anche di cronaca. Non dimentichiamo l'assassinio del carabiniere Cercello, o il fatto di Luca Sacchi, che è ancora alle nostre cronache di oggi. O se vogliamo parlare di fatti di giustizia, il caso Palamara, possiamo parlare di sport, di spettacolo, insomma il libro dei fatti è veramente una piccola enciclopedia, un compendio enciclopedico di fatti e di nozioni, no, dove possiamo trovare di tutto. Tu per esempio, Leonardo, te li ricordavi alcuni di questi fatti? Effettivamente sembrano un po' dell'anno scorso, sembrano annullati un po' da questa, quella che io chiamo un'infodemia. Recentemente si è tornati a parlare dell'omicidio di Luca Sacchi, e quando si è tornati a parlare mi ha colpito, perché sembrava una vicenda di tanti anni fa, in realtà è recente, insomma. Sì, esatto. C'è un po' un atteggiamento nostro, forse di maggiore o minore empatia nei confronti delle informazioni, che quindi ce le avvicina o ce le allontana. Io stesso molto spesso mi trovo a strabuzzare gli occhi quando mi rendo conto che una notizia è o tanto lontana nel tempo, che a me sembrava invece estremamente vicina, o al contrario mi sembra una cosa accaduta ieri e invece era lontana nel tempo. Eh sì, abbiamo, come dire, proprio, e questo è l'effetto che ha un po' sulle nostre menti di questa invasione di notizie, che io un po' contrasto, nel senso che noi operatori dell'informazione dovremmo guardare anche ad altro. Molti mi criticano dicendo: ma come si fa? Cioè, ormai vai anche fuori, laddove si può andare fuori, in alcune regioni incontri le persone e non si parla d'altro, si parla solo di tutto e viene ricondotto al coronavirus. E va bene, allora riconduciamo tutto al coronavirus, sembra che non esista una vita al di fuori di questo. Ma non possiamo dimenticare ad esempio i fatti della Brexit, che comunque sono... Appunto. Non possiamo rifiutare il fatto che siano comunque di casa nostra ormai questi eventi. Boris Johnson alla guida della Gran Bretagna e le dimissioni di Theresa May, o i viaggi del Papa nel 2019, 11 nazioni visitate, comunque una sorta di record: Marocco, Panama, Emirati Arabi, Mozambico, Madagascar, Giappone. Tanti sono i fatti che comunque continuano a influenzare le nostre vite, al di là ovviamente della pandemia. Certo, l'anno prossimo ci sarà, come dire, un bel corpaccione del libro dei fatti dedicato al coronavirus, e poi il resto, cosa fate? Il resto, no? Più o meno farete così, immagino. Tutto ciò che rimane. Sì. Comunque dal nostro canto abbiamo il fatto che il libro in qualche modo costituisce anche un po' un antidoto alle fake news, quindi vanno raccontati tutti i fatti della quotidianità, e quelli comunque continuano ad esserci e vanno detti, e vanno poste le basi di una sana e corretta informazione. Sì. Insomma, per noi questo libro, ripeto, è un po' un antidoto alle fake news. I fatti esistono in quanto tali, o perché sono riportati dai media? Intendo dire, che ruolo hanno i media in tutto questo, nel far avvenire, comunque nel ricordare che esistono fatti oltre al coronavirus? Ma io, permettendomi di parlare per il gruppo ADN Kronos, noi come agenzia primaria di informazione raccontiamo il fatto nudo e crudo. Poi forse quella a cui sta accennando Manera è una trasposizione, un raccontare il fatto nelle sue sfaccettature. Allora lì inizia ad esistere non solo la dimensione dell'accaduto, ma anche di tutto il contorno, di tutte le persone che ne vogliono parlare, di quello che è il sentito dire e l'umore, la pancia del paese nei confronti di quell'evento. Però noi ci limitiamo a raccontare né più né meno il fatto, corredandolo di dati, e quindi lasciando al lettore, lasciando alla persona che vuole essere informata, la facoltà di ragionare su quello che è accaduto. Certo. Allora, ringraziamo Antonello Spila, direttore editoriale del gruppo ADN Cronos, appunto il libro dei fatti è arrivato a 30 anni. Caro Leonardo Manera, ci dicono dalla Casa Bianca alla Casa Stanca, dalla Casa Bianca alla Casa Stanca. No, io voglio... Che succede? Stai preparando il caffè per Melania? Sto facendo un po' di latte, di caffè col... Di sì? Caffè liofilizzato col latte. Caffè liofilizzato col latte, mamma mia. Sì, sto facendo scaldare un po' di latte. Melania, vieni a salvarlo. Portalo almeno al bar Jimmy, dove gli fanno un cappuccino. Come... Anticipo la sigla della borsa. Sai che forse questa è più gentile, delicata e più bella. Senta, allora, attenzione, le informazioni della borsa. Uno, nessuno, 100 Milan. Manera, Melania se lo compra il centro commerciale. Qualcuno disse: è più facile che il Milan vinca lo scudetto che la Melania vada con Manera. C'era anche la rima, ma non... Pensa che il Milan vinca lo scudetto che la Melania vada con Manera a... C'era la rima baciata, ma non ha avuto il coraggio il nostro ascoltatore. Vabbè. Io non l'ho immaginata la tua rima. Ha letto, scudetto, ha letto. Niente di sconvolgente, niente. No, immagino che non sia un amore platonico quello che tu offri a Melania. Ma per me Trump, va bene anche l'amore platonico con vabbè, Melania. Vabbè, dormirete però, a un certo punto dovrete dormire, vabbè. Allora, ci scrivono la telefonata da Dinolfi, oggi non c'è tempo, comunque meno 4 rimane a da Dinolfi in linea ideale e teorica. Caro Leonardo, a me questa storia dei visoni da giorni può sembrare una notizia minore, ma i milioni di visoni che devono essere sterminati, questo è, sono sterminati in Danimarca, l'Inghilterra che addirittura chiude le frontiere con la Danimarca. Adesso leggevo ieri sui giornali che anche in Italia il tema dei visoni, questi animali che sarebbero sensibili evidentemente alla ricezione del virus, poi a una mutazione del virus per poi ripassarlo all'uomo, è questa cosa un pochino inquieta. A me interessa. Allora abbiamo chiamato Nicola De Caro, che è il presidente dell'Associazione Italiana Infettivologi Veterinari. Buongiorno, dottor De Caro, eccoci qua. Buongiorno, dottor Milan, buongiorno a tutti voi. Allora, non so, dobbiamo inquietarci oppure fino ad ora sono notizie così da giornali? No, prego. No, io sarei, diciamo, solo sull'allerta, non sarei così inquieto rispetto a queste notizie, perché ci sono una serie di fatti che sono noti ormai da tempo, cioè sappiamo perfettamente che il visone è tra gli animali uno di quelli più sensibili all'infezione da SARS-CoV-2, mm-hmm. un po' come lo era stato per il suo parente stretto che era il virus della SARS. Sì. Sappiamo che le condizioni di allevamento di questi animali non sono eccezionali, nel senso che c'è molto sovraffollamento, quindi nel momento in cui questo nuovo coronavirus entra in un allevamento di visoni, per le condizioni particolari di allevamento sicuramente si trasmette molto facilmente da un visone all'altro e quindi subisce un fenomeno di amplificazione virale. Ma si modifica anche, che è quello, se ho capito bene, l'allarme, il fatto che poi si può modificare e trasmettere nuovamente all'uomo, modificato quindi con dei danni diversi rispetto a quelli di prima. Allora, la questione qui è molto semplice in realtà. I coronavirus vanno incontro sempre a modificazioni, a mutazioni, soprattutto man mano che si adattano a un nuovo ospite. anche nell'uomo sono descritte attualmente numerose varianti, perché poi sulla definizione di varianti bisogna anche mettersi d'accordo. Sicuramente non basta una singola mutazione nel genoma del virus per far emergere una nuova variante. Però sì, il succo del problema è che nel visone sicuramente questo virus, nel tentativo di adattarsi, va incontro a delle mutazioni, e alcune di queste varianti originatesi nel visone possono poi passare all'uomo per un fenomeno appunto che si chiama back passage del virus dall'animale all'uomo. Il problema è che non abbiamo dati certi su come queste varianti possano realmente impattare su un vaccino che attualmente tra l'altro non esiste. Quindi secondo me le informazioni che vengono dalla Danimarca sono al momento abbastanza confuse. C'è bisogno di una riflessione, di una condivisione dei dati con la comunità scientifica internazionale, perché quello che sappiamo al momento è che tra le diverse varianti che si sarebbero originate nel visone ce ne sarebbe una che reagisce poco con gli anticorpi già costituiti nei confronti di altri ceppi SARS-CoV-2 che circolano nella popolazione umana. Ma non sappiamo quanto questi impatti sul vaccino. Sì, tra l'altro leggevo, ma non so, chiedo a lei. Quindi sarebbe, scusa, una variante più pericolosa. Una variante ovviamente più pericolosa per questo. Prego, prego, De Caro. Non pericolosa dal punto di vista biologico, patobiologico, di aggressività. Potenzialmente pericolosa, ma non abbiamo ancora dati delle prove rispetto alla possibilità di non essere totalmente coperta, neutralizzata da un ipotetico futuro vaccino. No, perché però leggevo che pare che siamo stati noi uomini poi a portarlo, a meno leggevo, cioè il contatto di chi evidentemente lavora negli allevamenti a portarlo ai visoni. Cioè, nel senso, mi dispiace, ecco, per questi animali che adesso corrono di fronte a un destino di sterminio. Questo è, se è scritto da più parti, no? Questi animali alla fine sono vittime incolpevoli della stranezza umana, perché i primi focolai negli allevamenti di soli sono stati descritti già verso aprile-maggio in Olanda. E quindi le organizzazioni internazionali scientifiche, l'OMS, l'OIE, che è il corrispettivo dell'OMS per quanto riguarda il mondo animale veterinario, avevano già raccomandato l'utilizzo di DP, dei dispositivi di protezione, per quanto riguarda il personale che è addetto alla cura di questi animali. Naturalmente non sono state rispettate le norme e ci troviamo in questa condizione in cui in parecchi allevamenti il virus è passato dall'uomo al visone, sintomatico o pace sintomatica, nei visoni. Cioè, quindi la questione è questa: gliel'abbiamo portato noi e adesso li sterminiamo. Ma per carità, io non è che voglio. Adesso li sterminiamo perché non abbiamo altra soluzione. Se diciamo il virus è fuori controllo tra i visoni. No, in sintesi è così, dottor De Caro, mi sembra di capire. Sì, ha centrato il succo della situazione, poi sullo sterminio o meno di questi 17 milioni di animali, diciamo che non tutti sono concordi. E tra l'altro la Danimarca non ha bandito l'allevamento del visone, quindi sì, io avrei posto più un problema etico di allevamento, condizioni di allevamento di questi animali e di potenziale serbatoio e ruolo di amplificatori che questi animali possono svolgere nei confronti del virus. Sì, c'è una battaglia, se lei vuole dire, a lungo termine, che è quella che lei giustamente ci ha ricordato, etica, e poi c'è però la contingenza, cioè adesso che facciamo in questo momento, non per negare, come dire, la battaglia che lei giustamente pone all'attenzione, che è una battaglia che uno può portare avanti, c'è la questione del che fare proprio ora. Comunque, guardi, dottor De Caro, ci ha dato delle informazioni molto utili. Magari continueremo, cercheremo di tenere sotto controllo questa situazione che può sembrare secondaria, può sembrare una notizia così minore, ma a me è appassionato. Vorremmo capirci di più nei prossimi giorni. Nicola De Caro, ripeto, è presidente dell'Associazione Italiana Infettivologi Veterinari, che ringraziamo. Andiamo al traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Siamo in rapido avvicinamento alla chiusura di questa puntata, ma È tornato a trovarci il professor Picchio, il nostro virologo. Anzi, professor Piero Picchio, sì, virologo. Lo accoglierei così. Lode a te, oh virologo. Forza, ripetiamo molto tutti bene, insieme. Molto dai, bene. Al 3, 1, 2, 3, cari ascoltatori. 1, 2, 3. Lode a te, oh virologo. Ecco. Finalmente vengono riconosciute le competenze, finalmente è arrivata la seconda ondata, ma noi virologi dopo, certo, dopo la triste parentesi dell'estate siamo tornati a essere noi virologi indispensabili, contento, non illudetevi che la seconda ondata sia l'ultima, le ondate di coronavirus sono come le onde del mare, non finiscono mai, dopo la prima c'è la seconda, dopo la seconda la terza e così via, ogni tanto sembra che il mare si sia calmato per un attimo, ma poi spinte dal vento o anche solo dalla brezza, le onde ricominciano a sferzare la battiglia. E così fa il coronavirus, non finirà mai. Ma e no, noi saremo per sempre indispensabili. Ma non provi questo godimento. E perché saremo per sempre indispensabili? Perché? Noi saremo per sempre indispensabili perché abbiamo studiato materie serie, sì, e voi no, mentre voi eravate a fare aperitivi, apericene, happy hour, ubriacandovi e limonando nei bagni dei pub, noi eravamo chini sui libri a studiare, finalmente veniamo premiati. Oh. Voi che eravate a fare gli happy hour, o adesso siete costretti a casa. Anche e noi che abbiamo studiato siamo ricercati da tutti i media per portare al volgo gretto e ignorante la nostra sapienza. No, ma non dica così. Io sono sapiente, sì, io sono sapiente, invece io sono, so tutto. Lei sì, che cosa ha studiato? Sentiamo, io sempre studiato, scienze politiche. Sempre, sempre. Voi non sapete nulla, nulla, non sapete nemmeno poco cos'è il betaclomato analgico. Lei sa cos'è il betaclomato analgico? Secondo me ci sta prendendo in giro, professore. Esatto, posso inventare qualsiasi cosa. Voi siete pronti a berla come asinelli assetati, poveri animaletti ignoranti. No. Senta, ma sai che ci sono degli ascoltatori che mandano delle domande per lei, incredibile. Allora, vediamo un po'. Sentiamo. Marta, da Carate Brianza, sì, chiede, mettendo la mascherina siamo sicuri di essere protetti? Stia buono, con Marta. Allora, Marta da Carate Brianza, la nostra Marta delle curiosità scientifiche in Brianza, la terra dei mobilifici. Vabbè, che banalità. Brava Marta, torna al tuo cassettone impiallacciato ciliegio, che è meglio. Ma cosa ne sale? Stai nel tuo cassettone, fai una bella dormitina e non chiederti nulla, segui le regole e basta. Metti la mascherina e non farmi perdere tempo. Pensa ai tuoi mobiletti impiallacciati, tamburati o di truciolare, apri il tuo cassettone, mettiti lì dentro, fatti una bella dormita e soprattutto stai a casa. Marta, ecco, questa... guardi che invece Giuseppe da Trieste chiede se, sì, finalmente sappiamo curare il virus, cioè c'è una cura, professor Picchio. Il caro Giuseppe da Trieste vuole sapere se sappiamo curare il virus. Caro Giuseppe da Trieste, si vede che a forza di uscire di casa la bora ti ha fatto volare via anche il cervello. Ma dai, ma secondo te se ora si sapesse curare il virus noi virologi saremmo ancora così indispensabili? No, fortunatamente no, fortunatamente non c'è ancora una cura definitiva. Vabbè, guardi, allora, ma solo palliativi, in attesa del vaccino che forse arriverà, sì, forse no, forse sarà efficace, forse no, chi lo sa, chi vive vedrà, zumpa zumpa trallallero trallallà, nel frattempo stai a casa. Guardi, allora risponda velocemente anche a Mariolina da Napoli, sì, che vuol sapere se a suo parere è giusto che Napoli sia zona gialla. Ecco, Napoli, Mariolina. Allora ti do un consiglio, Mariolina da Napoli, turna basta pizza capumarola. No, ma professore, ma dai, ma che luoghi comuni è l'unica cosa che sai fare, invece di interrogarti sulla zona gialla, zona rossa. Una volta prossima che vengo a Napoli mi preparo una bella pizza capo, un marolo in coppa, e io, se sono magnanimo, parlo un po' con te. Nel frattempo però stai a casa. Va bene, Marionietta. Professore, guardi, va bene, e noi la ringraziamo, insomma, la salutiamo, ci venga a trovare presto, è sempre pagato ovviamente, professor, sì, Piero Picchio. Aspetto il bonifico, sto ancora aspettando l'ultimo bonifico. Lode a te, aspettando l'ultimo bonifico. Va bene, grazie, ci troviamo domani. Uno, nessuno, 100.000.